effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora, eccoci di nuovo su Radio Wombat all'1359 nelle frequenze onde medie. Questa settimana ci occupiamo nel nostro spazio radiofonico della stampa rassegnata di pena di morte e ergastolo. Lo facciamo in compagnia del collettivo Antonin Artaud di Pisa, collettivo antipsichiatrico che più volte è intervenuto ai nostri microfoni, e lasciamo immediatamente la parola a Diego per questa intervista fiume con Nicola Valentino. Noi come collettivo antipsichiatrico stiamo facendo un percorso sulle suicidi totali da un po' di tempo, e appunto oggi ci tenevamo a parlare di questo libro che parla appunto di ergastolo e pena di morte come soluzioni capitali. Come collettivo da anni siamo impegnati nella campagna Liberarsi dall'ergastolo, quindi stasera appunto affrontiamo questo tema. Nicola nel suo libro definisce l'ergastolo e la pena di morte come appunto due istituzioni capitali che riducono in agonia il condannato già dall'inizio, dalla pronuncia della sentenza. Già la pronuncia della sentenza della condanna inizia appunto quello che Nicola definisce agonia. Se con la pena di morte lo Stato ti toglie la vita, con l'ergastolo te la prende. Allora, volevo chiedere a Nicola di raccontarci un po' del lavoro. La prima cosa da dire è che io ho un'esperienza all'ergastolo, ho fatto circa 28 anni all'ergastolo e proprio per capire come nasce questo libro, su questa esperienza all'ergastolo praticamente ho scritto tre libri, diversi libri sull'esperienza dell'ergastolo, sia la mia esperienza ma anche l'esperienza di raccontando e riflettendo sull'esperienza che altre persone ne fanno all'ergastolo in Italia e in giro per il mondo, con l'obiettivo di capire, di raccontare che tipo di istituzione è l'ergastolo, in che modo l'ergastolo è diverso, ad esempio, da una pena temporale anche lunga. Ora, questi libri io li ho portati all'incontro con la società, ho fatto diversi seminari, convegni, assemblee. Però negli ultimi anni la riflessione che ad un certo punto ho maturato è che era necessario uno spostamento narrativo, cioè era necessario raccontare evidenziare con maggiore forza la specificità dell'istituto dell'ergastolo, e per fare questo, a parer mio, l'ergastolo va con decisione spostato, tolto, anche dal punto di vista proprio delle riflessioni, anche dal punto di vista degli incontri, dalle riflessioni più ampie che si fanno sul tema del carcere, sul tema della pena, e va collocato con decisione insieme alla pena di morte, quindi va collocato con decisione tra le pene capitali. Per poterlo abolire, questo è l'obiettivo del mio percorso di ricerca, per poterlo abolire è necessario collocarlo con decisione accanto alla pena di morte, perché l'ergastolo è anche dal punto di vista proprio del giuridico, come la pena di morte, è una delle due pene capitali. Ora, per per far capire in profondità questo abbinamento, ho riguardato tutto il tipo di lavoro già fatto sull'ergastolo, l'ho riguardato però con questo scopo e con questo obiettivo, ho riguardato e ho aperto una riflessione anche sulla contemporaneità della pena di morte nel mondo per poter cogliere le similitudini, per poter cogliere cosa avvicina nella contemporaneità pena di morte del ergastolo. Come si diceva prima, la parola chiave per questo spostamento narrativo, per questa nuova narrazione sull'ergastolo, la parola chiave è la parola agonia. Noi, le persone, tutti noi, dell'agonia abbiamo un'esperienza, perché delle persone abbiamo perso delle persone care, abbiamo un'esperienza quando le persone si ammalano per malattie gravi, per malattie terminali. Anche dal punto di vista della ricerca, l'agonia viene definita come vivere morendo, come un'esperienza, un processo attraverso cui parti della vita vanno via e la persona si avvicina alla morte. Chi fa ricerca sull'esperienza dell'agonia ha notato come l'agonia, la parola stessa lo dice, in realtà sia una lotta fra, in un certo senso una lotta fra identità che muoiono e altre identità che emergono per fronteggiare l'esperienza dell'avvicinarsi, dell'avvicinamento del fine vita. Sempre chi lavora con i malati terminali, ad esempio, osserva che una delle cose più importanti per affrontare il percorso dell'agonia, il fine vita, è quello di non aggrapparsi alle identità che hanno caratterizzato la vita sociale della persona fino al momento in cui la persona si ammala. Nell'Occidente, le persone più che della morte hanno paura di questo percorso agonico, perché durante l'agonia viene meno quella che è l'immagine, l'identità che la persona ha costruito socialmente, viene meno per questioni legate alla malattia, per questioni fisiche, per possibilità relazionali e fisiche anche che si perdono. Ora noi dobbiamo immaginare che tutto questo, che ci sono due istituti del sistema penale come la pena di morte e la pena dell'ergastolo, in cui tutto questo non accade per una malattia, ma accade perché viene istituzionalmente indotto. Con la pena di morte, l'istituto dell'ergastolo e l'istituto della pena di morte sono due istituzioni penali, due istituti penali che inducono nella persona che gli vengono condannate questo processo che noi vediamo, nella vita di tutti i giorni, vediamo come causato da una malattia grave. Quindi questo è il punto di partenza per riguardare attraverso questa parola, riguardare l'istituto della pena di morte e l'istituto dell'ergastolo. Qual è il momento decisivo di questa induzione agonica nel corpo della persona reclusa? Il momento, la porta d'ingresso nell'esperienza dell'agonia è la sentenza. Con la sentenza, quindi con come dire, proprio la declamazione in aula della condanna di una persona alla pena di morte all'ergastolo, si esponi, si dice, la sentenza si infligge, giusto questa parola. Ebbene, questa parola infliggere dà in realtà ha un significato profondo, nel senso che la sentenza, nel momento in cui viene pronunciata, si infligge, si infligge nel corpo della persona e anche nel corpo dell'intorno sociale della persona, cioè nelle persone care, nei familiari che sono, come dire, incolpevoli. Con la sentenza questo, il peso di questa condanna si fa corpo nella persona condannata. Questo è evidente, per esempio, se noi leggiamo le cronache processuali alla fine, quando le persone vengono condannate all'ergastolo o alla pena di morte, e sono presenti i familiari, proprio perché questa parola si infligge nel corpo, anche i giornalisti raccontano come dire, di reazioni paradossalmente assurde, di reazioni, l'imputato ride, i familiari piangono, le persone urlano, si scagliano contro, cioè come dire, c'è tutta una serie di, vengono registrate tutta una serie di comportamenti e di reazioni da parte di chi subisce questa condanna, perché appunto la condanna è radicale e spinge le persone ad avere quelli che potremmo definire degli effetti di trasalimento, delle reazioni di trasalimento che servono sia alla persona condannata sia ai familiari per tenere il corpo insieme, per tenere la propria psiche, il proprio corpo, evitare che alla pronuncia della condanna si smarrisca, si perda, si disgreghi, perché la condanna è sia la condanna all'ergastolo sia la condanna a morte sono condanne che decretano la pena della persona fino alla morte. Quando una persona viene condannata all'ergastolo, la parola ergastolo in un certo senso nasconde, perché è una parola di difficile comprensione del significato, infatti viene usata solo nella lingua italiana la parola ergastolo, in altre lingue si usano l'ergastolo, in francese si dice perpetuité, anche in inglese significa prigione a vita, viene usata questo tipo di frase per parlare della pena fino alla morte. In lingua italiana usiamo la parola ergastolo perché facciamo risalire la natura di questa pena all'antica Roma. Gli ergastoli erano le prigioni per gli schiavi, e quindi noi continuiamo ad usare questa parola, però diciamo il significato della condanna all'ergastolo, quello fuori, quello al di là dei camuffamenti delle parole, il significato profondo della parola ergastolo è fino a morte del reo. Quindi quando viene pronunciata la condanna all'ergastolo, alla persona si dice: tu sei condannato fino alla morte. Questo è il significato profondo. E fino alla morte significa che la persona perde, se una persona viene condannata ad una pena anche a 30 anni, è una persona che viene strappata per 30 anni dal contesto sociale, quindi viene socialmente deprivata, ma viene socialmente deprivata per un arco di tempo. Quando ad una persona si dice ergastolo, si dice che a questa persona viene tolta la stessa prospettiva sociale e relazionale. Per questa persona non c'è più prospettiva sociale, viene esclusa a vita dal consorzio umano, e questo ha un significato profondo dal punto di vista dell'identità di specie che tutti noi ci connota, che tutti noi ci caratterizza, che è quella, come dire, la natura profonda dell'identità di specie, che tutti noi siamo delle creature sociali, delle creature relazionali. Quindi quando si pronuncia la parola ergastolo, si dice che questa è la persona viene tolta, no, non viene solo tolta dal sociale, viene tolta dalla stessa prospettiva sociale, quindi viene definitivamente strappata dal consorzio umano, e ai familiari quella persona viene strappata definitivamente. I familiari, che è una cosa della quale si parla poco in realtà, i familiari vivono una situazione molto particolare, molto, come dire, di smarrimento, perché si trovano a dover elaborare il lutto che perdono, ma che è un lutto paradossale, un lutto di difficile elaborazione, perché devono elaborare il lutto di una persona socialmente morta, ma come dire, fisicamente ancora viva, quindi di una persona introdotta in un percorso agonico, e i familiari fanno fatica a comprendere e ad elaborare questo tipo di esperienza. Io in questo ultimo libro, ma anche in altri libri, ricordo spesso la frase di una madre che dice: l'ergastolo è un tarlo che mi rode il cervello, cioè qualcosa che lavora nel mio cervello e che non riesco, che si infligge, che scava e corrode, e che cosa alla quale non riesco a dare un senso, non riesco a dare un significato. Quando ero all'ergastolo, mi ricordo una persona che ad un certo punto, che veniva a trovarmi, e a un certo punto smette d'improvviso di venirmi a trovare, perché dice: io non so se esisti veramente. Quindi sia la persona condannata sia il mondo sociale che intorno alle persone condannate vivono in modo lacerante questa condizione di condanna fino alla morte. Insisto ancora sulla parola, perché anche i reclusi alla pronuncia della parola, come dicevo prima, hanno reazioni di vario tipo per poter reagire, per potersi tenere insieme. Molte persone recluse, condannate all'ergastolo, si suicidano immediatamente dopo la condanna, quando la sentenza si infligge nel corpo della persona condannata. La stessa parola ergastolo in carcere è una parola tabù, proprio per queste caratteristiche. È una parola che non si deve pronunciare. A me è capitato in carcere, all'inizio, quando avevo preso la condanna, di stare, che delle persone in prigione come me mi chiedessero: ma che pena hai? Che condanna hai preso? Quando io dicevo ergastolo, come dire, si zittivano e dicevano: scusa, non volevo, come appunto avevano violato un tabù e la parola era stata pronunciata. In carcere si usano dei giri di parole per dire ergastolo, si usa dire hai preso l'erba, hai l'erba sul groppone, che è un modo, come dire, ironico per dire però una verità profonda, nel senso che quando si dice hai preso l'erba sul groppone significa che sei un sepolto vivo. In realtà ti stanno dicendo, evitando la parola tabù, la natura profonda della pena a cui sei stato condannato. Una va detta sempre per in Italia la pena di morte è stata abolita, però la pena di morte è presente in parti del mondo, stati che hanno popolazione hanno la pena di morte. Nel libro ci si interroga molto su cos'è la pena di morte nella contemporaneità, in particolare negli Stati Uniti, negli stati degli Stati Uniti che hanno la pena di morte. Ora, per capire la similitudine è bene fare chiarezza sulla pena di morte, nel senso che noi consideriamo che quando si viene condannati a morte, si viene condannati alla pena di morte nella modalità comune di parlare, di conoscere la pena di morte nel luogo comune, i luoghi comuni sulla pena di morte, si pensa appunto che una persona viene condannata a morte e poi viene messa a morte e viene in un certo senso immediatamente messa a morte. In realtà la pena di morte nei secoli è cambiata profondamente. Nell'Ottocento fino agli inizi del Novecento la pena di morte è stata spettacolo patibolare, quindi allora valeva questo discorso, nel senso che una persona veniva condannata a morte poi messa sul patibolo e c'erano varie modalità di mettere a morte le persone. Tutte queste modalità avevano caratteristiche spettacolari. La pena di morte, dal punto di vista storico, era la modalità attraverso cui i poteri assoluti seducevano le folle, più che terrorizzare, come pensava Beccaria quando criticava la pena di morte. In realtà, più che terrorizzare, i poteri attraverso lo spettacolo patibolare seducevano, portavano a sé il popolo, perché il popolo faceva carte false per avere il primo posto sotto il patibolo. Era una forma di spettacolo. Quando è stata introdotta la ghigliottina, il popolo ha protestato, perché la ghigliottina era, riduceva lo spettacolo, era troppo tecnologica rispetto ad altre forme di uccisione dei condannati. Quando è stato eliminato, la pena di morte è rimasta, ma è stato eliminato lo spettacolo patibolare, da quel momento la pena di morte, anche la pena di morte, è sostanzialmente diventata pena fino alla morte. E l'istituzione che la rappresenta in modo più chiaro sono i bracci della morte. Negli Stati Uniti oltre il 40% delle persone condannate a morte sta nel braccio della morte praticamente da oltre 20 anni. Nel libro si raccontano delle storie di... Il libro Le istituzioni dell'agonia è un libro prevalentemente fatto di narrazioni esperienziali, quindi di storie, di esperienze di persone all'ergastolo e di esperienze di persone che hanno fatto l'esperienza del braccio della morte. Alcuni sono ancora nel braccio della morte e altri invece la sentenza è stata eseguita. Quindi noi raccontiamo la storia di un indiano Yaqui, Fernando Eroscaro, che è stato oltre 30 anni nel braccio della morte. Quindi nella contemporaneità anche la pena di morte ha la caratteristica di essere pena la morte, e noi come Sensibili alle Foglie abbiamo molti anni fa pubblicato un libro, un epistolario molto forte di un condannato a morte che allora stava nel braccio della morte, che si chiamava Paul Rougeau, e Paul Rougeau scriveva in questa corrispondenza con un popolo di persone, con una rete di persone che si scriveva con lui, abolizionista della pena di morte, diceva: l'esperienza del braccio della morte è una tortura prolungata e un'agonia protratta. Questa è la caratteristica dell'esperienza del braccio della morte. Fernando Eroscaro, questo indiano Yaqui che è stato oltre 30 anni nel braccio della morte, diceva: si può vivere, si può morire, ma non si può vivere in attesa di morire. Quindi anche proprio le parole dei condannati a morte mettono in evidenza il processo agonico della condanna alla pena di morte. Se si leggono per esempio le lettere di Paul Rougeau, se si leggono le scritture, gli scritti delle persone condannate a morte, ma anche gli scritti di persone che hanno la condanna dell'ergastolo, si capisce la dimensione del processo agonico, nel senso che i racconti, chi racconta l'esperienza o nei bracci della morte o nelle carceri con la condanna all'ergastolo, racconta appunto come parti di te, componenti identitarie, muoiono progressivamente. Muore l'identità sessuale, muore la tua identità affettiva, muore e viene minata profondamente l'identità di specie, e con l'identità di specie vengono minate e muoiono progressivamente nel corso degli anni molte parti di te. Come legge applicata per vendetta, e se quella del popolo è di Dio, io la fischio dall'oggione come stecca, perché di sto tenore non si può contrabbandare per parola del Signore, punto. Miro e faccio fuoco e fiamme se mi guardo in giro, togliere il respiro un uomo chiuso in una cella è solamente un assassino che cela il suo mandante nel diritto e complica il delitto, circondandosi di complici che ammaccano il grilletto stando zitti, cui garantisce un alibi da vittime costrette a uccidere per autodifesa e usate come pesi sopra il piatto dell'accusa. Ma il gioco lo conosco, e da millanni puoi pure strofinartele per mesi, le tue mani restano sporche come le coscienze di chi ancora ti sostiene, mentre ligi forche come fossero altalene. Poi ci appendi le persone, le lasci penzolare come stracci insesi al sole, le asfissi in una stanza o gli metti una sostanza dentro al cuore, o glielo fai scoppiare da un plotone. La carne ai ferri è la tua vera religione, cerchi un capro nero, lo pascoli in un cimitero e poi li muori su un altare a remissione dei peccati, e di lui non hai memoria perché è solo un altro morto nella storia. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiama sangue, tu rispondi al suo richiamo, predichi giustizia, poi razioni il crimine, armi tuo venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiama sangue, tu rispondi al suo richiamo, predichi giustizia, poi razioni il crimine, armi tuo venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiama sangue, tu rispondi al suo richiamo, predichi giustizia, poi razioni il crimine, armi tuo venduto che dispone della vita di un suo simile. Sangue, tu rispondi al suo richiamo. Per il raccontano fin da bambino, ti deformano, ti illudi d'essere infallibile perché fai numero, ma non t'accorgi che la tua opinione la raccolgono soltanto quando i vertici fa comodo, muovono la tua coscienza sopra una scacchiera, pedina bianca, tu difendi una regina nera che divora vite umane in ogni direzione, mentre tu chiudi gli occhi ed apri la bocca come il pesce cane, bruci ossigeno vitale per me e per te, dicendo cose che non stanno in piedi neanche se rimpali, ripeti formule contraddittorie sempre uguali fin dai tempi di Mosè, i più ritieni il computo di occhi, denti, mani, piedi dispari, carcere d'ergastoli non bastano, non ti soddisfano, vorresti morto ogni fottuto criminale da ditare come esempio da evitare, ma ancora non è nato il delinquente che veda nella pena della morte un deterrente, spesso capita di fare fuori un innocente come niente e questo me lo chiami un incidente, boia dal cappuccio trasparente, vivi nell'anonimato, immune dal peccato, signore incontrastato della tua mediocrità, orfano del dubbio, testa nella sabbia, vittima della tua stessa rabbia. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiama sangue, tu rispondi al suo richiamo, premi di giustizia, poi razioni nel crimine, hai il tuo venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiama sangue, tu rispondi al suo richiamo, premi di giustizia, poi razioni nel crimine, hai il tuo venduto che dispone della vita di un suo simile. Tieni giù le mani da Caino, sangue chiama sangue, tu rispondi al suo richiamo, premi di giustizia, poi razioni nel crimine. Eccoci tornati in voce, avete sentito la nostra pausa musicale con Frankie Energy MC in una versione remixata di Tieni giù le mani da Caino. Ed ora continuiamo a trasmettere l'intervista che abbiamo realizzato con Nicola Valentino sul suo ultimo lavoro. D'altronde c'è una parola che nel gergo giornalistico, nel gergo anche dei politici e nel gergo popolare sintetizza il processo agonico, che è quando si dice bisogna condannare quella persona a marcire in galera. La parola marcire in galera rappresenta proprio la caratteristica di queste istituzioni, che è quella di indurre l'agonia in chi vi viene condannato. Adesso potremmo una differenza, diciamo, ecco, probabilmente vale la pena in questo racconto che vi sto facendo di evidenziare qual è la differenza fra entrambe, pena di morte ed ergastolo, sono pene fino alla morte, ma questo non lo dico io, nel senso che considerare la pena di morte come pena fino alla morte oggi, nella contemporaneità, ha questa caratteristica, lo dice un'acquisizione che è sostenuta dal movimento da buona parte del movimento abolizionista negli Stati Uniti, che quindi la caratteristica della pena di morte nella contemporaneità sia questa, sia un lungo percorso agonico da scontare nel braccio della morte. Ora, qual è la differenza? È che con la pena di morte lo Stato continua a mantenere la prerogativa di mettere a morte il condannato. Quindi con la pena di morte lo Stato dice: devo essere io ad ucciderti. E infatti succedono delle cose paradossali, alcune io le racconto nel libro, racconto la storia di un nativo negli Stati Uniti, Urso che corre, condannato prima all'ergastolo, poi alla pena di morte. Dopo molti anni di braccio della morte, Orso che corre si ammala gravemente, e che fa lo Stato? Lo Stato risultato della prigione in cui era, nel braccio della morte in cui si trovava. Orso che corre viene sottoposto ad un intervento chirurgico sofisticatissimo per essere tenuto in vita, per poter poi essere ucciso 2 mesi dopo con un'iniezione letale. Quindi lo Stato sorveglia quando si va a finire proprio nel braccio terminale, diciamo così, lo Stato sorveglia accuratamente il recluso affinché gli toglie praticamente tutto, fa in modo che il suo pensiero, che nel suo pensiero ci sia ormai solo il pensiero della morte, perché gli toglie televisione, contatti, gli tolgono tutto, non gli resta che il pensiero della morte che sta per arrivare, però viene nello stesso tempo sorvegliato affinché non si tolga la vita. Quindi con la pena di morte lo Stato si mantiene questa prerogativa. Con la pena dell'ergastolo, in realtà nel libro io dico, lo Stato affida alla morte penitenziaria l'esecuzione finale di questa pena fino alla morte. Uso la parola morte penitenziaria, quindi in un certo senso morte istituzionale, perché in realtà nel carcere, a maggior ragione all'ergastolo, non c'è morte naturale. All'ergastolo, nel carcere, all'ergastolo, se si muore di ergastolo. In ogni caso si muore di ergastolo e non di la malattia e la morte nelle condizioni di istituzionalizzazione e nell'istituzionalizzazione estrema non hanno più nulla di naturale, sono, come dire, semmai connaturate alla pena, ma non hanno nulla di naturale. Quindi questa in un certo senso è una delle forme di una differenza fra l'istituto della pena di morte e l'istituto dell'ergastolo. Accomunati dall'indurre l'agonia in chi vi viene condannato, ma come dire, con la pena di morte lo Stato dice se devo essere io a mettere a morte, con l'ergastolo è questa morte penitenziaria che gioca questo ruolo di esecuzione della pena. Ti volevo chiedere, ma nel libro, oltre a questa disamina molto interessante che ci hai restituito adesso, ma da un punto di vista quantitativo nel tuo libro hai sviscerato un po' quello che è l'universo carcerario degli ergastolani in Italia o addirittura nel mondo? Ci sono dei numeri che ci puoi fornire, ovviamente a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, che sicuramente sono temi che difficilmente troviamo su Repubblica o sul Corriere della Sera, che preferiscono invece, insomma, dare spazio ai patiboli contemporanei, no? Come quello che abbiamo visto allestito per l'arresto di Cesare Battisti, che davvero ci è sembrato a tutti gli effetti un nuovo spettacolo per le masse in cerca di sicurezza, o a cui dare in pasto qualche mostro o mostrificato recentemente. Ma insomma, nel libro hai preso in esame anche aspetti quantitativi? Quanti sono gli ergastolani in Italia? Nel caso di Battisti è stata usata la parola marcire in carcere. Anche buttare via la chiave, no? Buttare via la chiave anche. Sì. Marcire in carcere e buttare via la chiave. Marcire in carcere e buttare via. Dal punto di vista delle cifre, sì, sono 27.000 gli ergastolani nei paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa. All'anno in cui è uscito il libro era circa 1.700 le persone condannate all'ergastolo in Italia. L'Italia è uno dei paesi che maggiormente in Europa mette, come dire, utilizza la pena dell'ergastolo, che praticamente dagli anni 90 ad oggi è quadruplicato. Negli anni 90 gli ergastolani erano 400-500, oggi si parla di circa 1700. Queste sono le cifre. Una cosa interessante da considerare è, come dire, la tipologia di ergastolo. Che tipo di ergastolo oggi ci troviamo in Italia? Intanto dal punto di vista dal punto di vista anche giuridico, che poi anche dal punto di vista della condizione e delle prospettive, bisogna chiarire un'altra cosa sull'istituto dell'ergastolo. In base a quello che ho detto prima, noi in realtà ci troviamo di fronte a due istituti, pena di morte ed ergastolo, che sono tipici dei poteri assoluti. Cioè, bisogna, per cittadini, se abbiamo un pensiero critico nei confronti dei poteri assoluti, se ci vogliamo interrogare su che tipo di società, su che tipo di istituzioni vogliamo per la società, le due pene sono pene tipiche, caratteristiche dei poteri assoluti, cioè di quei poteri che si arrogano il diritto di decidere della vita e della morte delle persone. Ora, cosa succede con la pena di morte e con l'ergastolo? Che quando un potere assoluto condanna una persona a morte, quindi decide che sarà lui, quindi si prende la vita di quella persona, e decide che sarà lui quando si a decidere anche della sua morte, i poteri assoluti, quando prendono questa decisione, possono anche decidere di ridare la vita a una persona. Quando parliamo di pene capitali dobbiamo guardare anche questo aspetto, in particolare per quel che riguarda l'ergastolo. Quindi quando un potere ti condanna una persona fino alla morte, quello stesso potere che ha si è preso sostanzialmente la vita di quella persona può dettare anche le condizioni ridare la vita a quella persona, riconcedere nuovamente la vita a quella persona. Perché ho fatto questo discorso? Perché, in Italia di queste 1700 persone, oltre il 70% di queste 1700 persone si trovano in una condizione di ergastolo. All'interno della condizione di ergastolo che prevede, dopo le leggi varate all'inizio degli anni 90, che poi sono state ulteriormente aggravate e che sono collegate all'articolo 4 bis, praticamente gran parte delle persone che hanno preso l'ergastolo per alcune tipologie di reati, tra cui reato di associazione mafiosa eccetera, a queste persone, che sono il 70% degli ergastolani, lo Stato dice se tu collabori con gli organi inquirenti, quindi sei disponibile, ti mostri disponibile a mettere qualcun altro al tuo posto, come dicono le persone che stanno all'ergastolo, cioè abbarattare la tua vita in campo della vita di qualcun altro, allora come dire, posso avere nei tuoi confronti un occhio di riguardo e quindi ti ridò la possibilità di usufruire dei benefici penitenziari. Cioè stai dicendo, Nicola, che lo Stato sanziona la non collaborazione, cioè non solo non ci viene sostituito il meccanismo premiale, no? Cioè di premiare la collaborazione, ma si sanziona la non collaborazione. Esatto, cioè questa forma di ergastolo che io nel libro chiamo ergastolo inquisitorio e l'articolo 4 bis, che però non è valido solo per l'articolo 4 bis, è quell'articolo che toglie la possibilità di ottenere i benefici a persone condannate per reati di un certo tipo. Questo tipo di atteggiamento, questo stravolgimento del giudiziario, questo stravolgimento del diritto, in realtà fa sì che le persone vengano punite per non collaborare. Perché cosa fa lo Stato? Per sollecitare, allora tu hai preso l'ergastolo, il tuo ergastolo è un ergastolo collegato ad una certa tipologia di reati. Io ti ho condannato fino alla morte, dice lo Stato, però voglio dire, se tu sei disposto a collaborare con gli organi inquirenti e quindi a far arrestare altre persone, io posso venirti incontro. Per spingerti a questa collaborazione, intanto già il fatto che io non ti consento di ti metto nella prospettiva di non poter chiedere alcun tipo di beneficio, già intanto ti sto come dire, premendo su di te. Ma io posso aggiungere a questa forma di pressione anche quella di infilarti in una sezione di 41 bis, di farti fare l'alta sorveglianza, quindi di sottoporti ad un regime di tortura che dura attualmente in Italia, i dati che io riportavo, ora se non li ricordo male, sono oltre 600, mi sembra, le persone che sono sottoposte al regime del 41 bis. Quindi molte di queste persone sono persone condannate all'ergastolo. Quindi come istituzione, come Stato, premo affinché, premo con questa forma di tortura psicologica, fisica, perché significa massimo isolamento, perché significa colloqui con i vetri, non avere relazioni né con altri reclusi né con i familiari, io ti sottopongo ad una pressione e quindi se non collabori io ti punisco innanzitutto per indurti a collaborare con gli organi inquirenti. Ora il 70% degli ergastolani in Italia, quei 1700 che ho detto, sono dentro questa condizione. Per gli ergastolani che restano, lo Stato, anche gli ergastolani che restano e che non rientrano nelle tipologie di reato che dicevo prima e quindi non rientrano in quello che io chiamo l'ergastolo inquisitorio, perché di ergastolo inquisitorio si tratta, gli altri, anche per gli altri la possibilità di poter usufruire dei benefici penitenziari è legata alla discrezionalità dei tribunali di sorveglianza e dei magistrati di sorveglianza. Ma una cosa che va detta con chiarezza è che la stragrande maggioranza delle 1700 persone all'ergastolo sta scontando l'ergastolo, cioè si trova dentro questa condizione di lenta e progressiva agonia. Un'altra cosa che va detta, e questa riguarda anche questa dei numeri, che però attengono alla qualità sociale, alla composizione sociale della pena dell'ergastolo, è che il 99% delle persone condannate all'ergastolo, in particolare all'ergastolo inquisitorio, sono meridionali, sono campani, pugliesi, siciliani, sardi, quindi guardando le cifre, quello che noi ci troviamo di fronte è un ergastolo coloniale, cioè è un ergastolo che è rivolto alle popolazioni del sud Italia. Mm-hmm. Sì, sì, sì, te lo spieghi molto bene, fai questo discorso. Ma ti volevo sfatare con te un mito, Nicola. Diciamo che di solito si pensa, la maggior parte delle persone, no? È diffusa la convinzione che l'ergastolo viene dato a chi ha commesso un reato giudicato grave. Comunemente, io ho fatto tantissimi incontri, assemblee, convegnistiche, seminari. Cioè, quello che le persone dicono, dice, vabbè, ma se uno ha fatto un reato grave, è bene che è bene che pigli l'ergastolo, nel senso di dire, se ha preso l'ergastolo, allora vuol dire che avrà fatto qualcosa di terribile, che avrà fatto qualcosa di grave. Ora, questo in realtà è un luogo comune. Intanto io cito un articolo proprio del codice penale, diciamo, che addirittura le persone dicono, beh, se ha pigliato l'ergastolo vuol dire che ha fatto qualcosa di grave, avrà fatto un omicidio, una strage, qualcosa del genere. Intanto c'è proprio un articolo del codice penale che in Italia, e questo ad un certo punto è risultato una cosa anche per me che studiavo questo problema, che in Italia se si prendono due pene che totalizzano un cumulo di pena superiore ai 24 anni, si prende l'ergastolo, quindi già questo significa che come dire, in quel caso l'ergastolo viene dato per una sommatoria di reati temporali. Per comprendere con più precisione quello che ho detto, rimando alla lettura del per essere ancora più chiari sulla domanda che Diego mi faceva, molte persone, perché noi abbiamo oggi tanti ergastoli? È da lì che bisogna partire. Noi oggi abbiamo tanti ergastoli perché in tante leggi emergenziali, diciamo, e negli ultimi tempi, in particolare una serie di leggi legate ad esempio al fenomeno all'associazione di stampo mafioso, noi abbiamo, e lo dicono le persone che sono state condannate per questa associazione all'ergastolo, cioè loro fanno notare una cosa importante. Allora, loro dicono, per un omicidio prendono l'ergastolo 30 persone. Queste 30 persone prendono l'ergastolo, non è che queste 30 persone hanno fatto l'omicidio, queste persone prendono l'ergastolo perché quell'omicidio viene attribuito a quell'associazione e all'interno del reato associativo l'ergastolo viene dato non solo a chi presumibilmente, materialmente ha fatto l'omicidio, ma a tutti quelli che, come dire, vengono individuati come affiliati a quella organizzazione. Quindi cosa succede? Che prende l'ergastolo una persona che all'interno di quell'associazione magari ha fatto un reato, tipo, che ne so, un furto d'auto, una cosa qualunque, che se non ci fosse il reato associativo, come dire, gli costerebbe pochi anni in carcere. Quindi quella persona, anche che ha fatto un reato, diciamo, che non prevede l'ergastolo, prende l'ergastolo all'interno del reato associativo. Cosa succede in base all'ergastolo inquisitorio di cui parlavo prima? Che la persona che ha preso l'ergastolo, diciamo, per un furto d'auto, perché veniva visto dentro il quadro associativo, non intende collaborare con gli organi inquirenti, oppure non ha nulla da dire agli organi inquirenti, e quindi quella persona continua a farsi l'ergastolo. La persona che materialmente, alla quale viene materialmente attribuito quell'omicidio, decide di collaborare con gli organi inquirenti, oppure viene sottoposta a tortura che la spinge a collaborare con gli organi inquirenti, e quindi quella persona non si fa l'ergastolo. Quindi paradossalmente queste storie, che sono storie giudiziarie dell'oggi, della contemporaneità, ti fanno vedere come in realtà l'idea che l'ergastolo sia abbinato ad uno specifico reato sia un'idea del tutto infondata, del tutto priva di fondamento. Benissimo, Nicola. Vorremmo ricordare con questo anche le prossime iniziative che ci saranno. Sì, presenteremo l'istituzione dell'agonia giovedì 21 marzo a Livorno alle 6:30 di pomeriggio presso il Teatro Officina Refugio, e poi a Pisa venerdì 22 marzo alla Facoltà di Scienze Politiche alle ore 5. Un invito: perché dovremmo venire a sentire la presentazione del tuo libro, o perché lo dovremmo leggere? Diccelo te in un'ultima battuta prima di salutarci. Per chi ha una, come dire, un'idea abolizionista di queste pene, avvicinare un discorso che può costituire un'apertura nuova su come impostare una penetrazione sociale, un ampliamento sociale per un'idea di abolizione. Cioè, chi anche è già, come dire, dentro quest'idea, questo spostamento narrativo, io penso possa essere utile ad aprire socialmente, a sensibilizzare maggiormente le persone, perché è un discorso che a parer mio è più chiaro e che anche apre ai movimenti. Cioè, ecco, questo penso sia importante, perché pone un problema anche ai movimenti abolizionisti della pena di morte, perché molti delle organizzazioni che appartengono ai movimenti di abolizione della pena di morte legittimano l'ergastolo, cioè dicono siamo contro la pena di morte, vedono l'ergastolo come un'alternativa alla pena di morte. Questo lavoro invece dice con chiarezza che l'ergastolo non è un'alternativa alla pena di morte, ma è pena di morte. E Nicola, come che dire, un grandissimo ringraziamento, grazie. Un grande saluto. Grazie mille, Nico. I complimenti per il tuo preziosissimo lavoro, che abbiamo avuto modo di apprezzare più volte. Le istituzioni dell'agonia, ergastolo e pena di morte. Nicola Valentino per la casa editrice Sensibile alle Foglie. Ciao, per questa settimana da Radio Wombat è tutto. Ciao Nicola. Ciao Nico. Ciao, grazie, ciao.